piacerebbe arrivare a temere di non essere frainteso. Se solo avessi il genio, se solo avessi il genio. Mi piacerebbe estrapolare dal mio pensiero un contrappeso, partire dall'ingegno per arrivare al genio. Non avere niente da dichiarare eccetto che il proprio algido genio, il proprio fulgido genio. Tanto cieca la falsità, è solo l'altrui verità che vorrei prendere a calci in faccia. Mi piacerebbe disorientare senza troppo dare peso ai patti col contegno. Se solo avessi il genio, è il buon senso demolire, così come comunemente inteso lo fece Wilde il genio, con il suo caustico genio. Non avere niente da dichiarare, eccetto che